fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina vorrei riuscire a fare una trasmissione di servizio. Oddio, ci provo tutti i giorni, ma non sempre riesce bene. Esiste una massima che ho sottoposto ai miei ascoltatori dalla giornata di ieri, avendo ambigue risposte, che recita che comandare sia meglio che fottere. Questo lo dicono coloro che non hanno maniera di comandare e quindi anche poca maniera, ahimè, di fare quell'altra cosa nella sua accezione più scurrile, più carnale, perché si sa che chiaramente la ampia disponibilità e l'ampia possibilità di avere plurimi rapporti di soddisfazione amorosa è molte volte legata anche alla propria disponibilità monetaria, al proprio potere. Abbiamo fatto un paio di trasmissioni proprio una settimana fa su quanto il potere d'acquisto maschile soprattutto influisca nel fascino. Ma andiamo al senso del comando. Comandare è un'arte. Chi comanda naturalmente mette a punto delle strategie, delle tecniche, ha una sorta di innata capacità di comandare, ma allo stesso tempo un grado elevato di spietatezza, di cinismo, di poca considerazione delle persone su cui naturalmente deve esercitare il suo potere. Comandanti non ci si improvvisa, e soprattutto nello spietato mondo del lavoro e in particolare del management, quindi nella gestione delle aziende, non si può naturalmente avere una disponibilità, un'apertura, un istinto affettuoso e comprensivo nei confronti delle maestranze, perché sennò altrimenti si è cattivi comandanti, altrimenti non sei un buon manager. Il buon manager è colui che lascia strisce di sangue sul suo percorso. Esistono scuole di pensiero naturalmente contrastanti, esiste anche una lettura buonista, la facoltà della possibilità di usare il proprio comando e le proprie capacità direzionali, ma naturalmente poi se entrate nel vivo di quel mondo, di quel meccanismo, vi daranno tutti una bella pacca sulle spalle e vi diranno: ma che stai scherzando, non si tratta di questo. Beh, oggi in un momento di particolare tensione in cui il lavoro diventa un privilegio, il posto di lavoro diventa qualcosa che anche per chi si muove, per chi lavora, per chi milita nei vertici delle aziende, comincia a non essere poi una certezza così sicura, così assicurata, aumenterà sicuramente il livello di competitività. E quindi noi dobbiamo dare delle utility di come fare a sopravvivere e di come individuare chi naturalmente sopra di noi eserciterà il comando secondo quelle regole che prescrivono di non lasciare mai prigionieri. Che cosa motiva le persone? Le ferie! Le sfide, il cambiamento, le situazioni sempre nuove. I soldi. Una parola sola. E la parola è complimenti. Complimenti perché hai raggiunto gli obiettivi di vendita. Complimenti perché hai raggiunto gli obiettivi di produzione. Il complimento genera benessere e motivazione. Ricordate, complimenti. Dottor Pressi, complimenti. Veramente un bellissimo discorso. Ma nella vita reale, se voi fate i complimenti a un dipendente, quello si monta la testa e vi chiede l'aumento, il livello, la promozione. Ma noi questo non glielo possiamo dare perché abbiamo le mani legate. Mo dai, Veneruso, stiamo semplicemente dicendo che per motivare le persone ci vuole un bravo e una pacca sulla spalla. Cosa vuoi discutere? Naturalmente divido in questo momento i miei ascoltatori in una linea di separazione tra chi questi discorsi li ha fatti, se li ha sentiti fare, li fa perché si muove nell'area del management delle aziende, e chi in realtà li intuisce che qualcuno li faccia sulle sue spalle, qualcuno dia la pacca sulle spalle, qualcuno dia bravo, qualcuno faccia quei bei corsi motivazionali, qualcuno faccia quelle belle uscite aziendali e quelle belle convention in cui ci si mette su un palco e si fa una sorta di autocoscienza di fronte a tutti, si dice quali sono i propri limiti, e quei bravi consulenti che hanno lo scopo soltanto di ricreare motivazione nei dipendenti in momenti così particolari. Il brano che ho preso, ho tratto da un film che secondo me esprime in maniera magistrale quello che è il senso di angoscia che si vive negli ambienti di lavoro, in cui questa angoscia naturalmente è ripartita in parti proporzionali al livello di retribuzione. Le persone che stanno al vertice dell'azienda, essendo molto in alto, sentono soffiare più forte il vento sulla loro faccia e quindi devono passare delle macerate e tristissime giornate, ma ben remunerate, quindi avranno i loro momenti di gratificazione, nel guardarsi le spalle innanzitutto dai colleghi che vogliono andare al loro posto, perché una delle prime regole del carrierismo è che bisogna sempre guardarsi la persona che è vicino, non bisogna mai avere un attimo di compassione per chi potrebbe ambire al nostro posto. Quindi è impossibile avere amici. Avere amici è una cosa assolutamente detestabile, ma allo stesso tempo bisogna guardare con concupiscenza il posto e la persona che abbiamo sopra, perché quel posto dovremmo occuparlo. Il film, dicevo, è Volevo solo dormirla addosso, è un film di Eugenio Cappuccio, però è tratto da un romanzo omonimo di Massimo Lolli, che ha svolto la funzione di responsabile del personale in alcune aziende italiane, quindi sa benissimo com'è la situazione. È la storia di Marco Pressi, un giovane formatore, quindi si occupa di formazione, avete sentito, formazione significa insegnare alle persone come comportarsi, dare un clima accettabile perché i dipendenti si accontentino di poco e abbiano la possibilità, la facoltà, il desiderio di dare il sangue fino all'ultima goccia per la loro azienda. Marco Pressi però a un certo punto nella multinazionale in cui lavora si trova di fronte all'occasione della sua vita, gli viene proposta un avanzamento improvviso di carriera molto forte, di parecchie posizioni, un trattamento economico aumentato del 30%, un grande bonus, stock option, insomma un grande pacchetto di privilegi, però deve fare una cosa apparentemente impossibile. In 2 mesi deve licenziare 25 persone, cioè deve segare quasi il 30% dell'intero personale della filiale della sua azienda. E lui in maniera del tutto folle, ma allo stesso tempo fortemente motivato di fare quel passo, accetta. Ciao Marco. Ciao Giulio. Veniamo al punto. Le vendite fanno male, ovunque. Quindi 2 giorni fa a Parigi abbiamo deciso una riduzione del personale in tutta Europa. L'obiettivo è tagliare dei costi entro dicembre e presentarci più leggeri nell'anno nuovo. Il tempo a disposizione è pochissimo. Che cosa dovrei fare precisamente? L'obiettivo è questo. Dovrai ridurre di 25 le 90 unità dei corporate offices. Se elimini 25 persone, avrai un incremento del 30% della retribuzione, 50.000 euro di bonus, un piano in stock option e l'auto aziendale. Mi rendo conto che è un target difficile, ma non è negoziabile. Ne elimini 25 e ritiri il premio. Aggiungi che non vogliamo problemi con i dipendenti e con i sindacati. Contenti quelli che lasciano l'azienda, contenti quelli che rimangono. Contento il sindacato. Allora Marco, accetti? Accetto. Comandare è meglio che fottere. Io ho messo un punto interrogativo perché naturalmente i nostri ascoltatori dovranno chiamare all'800240024 e raccontare nel corso lungo breve della propria esperienza professionale quanto sia stata vera questa massima. Se per loro comandare è stato un compensativo forte della felicità di potersi anche togliere altri tipi di piacere, o il comandare è stato associato in maniera indissolubile al fottere, quindi più comandi e più fotti, o se naturalmente la loro vita è stata trascorsa in un lieto e spensierato fottere senza bisogno di comandare. Ma avevo detto che questa mattina avrei dato un senso di servizio a questa trasmissione, e perché il servizio statale occorre un esperto possibilità di risolvere questa equazione. Per Luigi Celli, buongiorno. Buongiorno. Celli, ecco. Noi ci davamo del tu, ce dobbiamo dare del lei. No, ci dobbiamo dare, continuiamo a darci del tu. Ecco, Celli è stato mio direttore generale alla RAI e ci siamo visti e conosciuti in varie occasioni. Oggi è uno dei più manager di maggiore esperienza ci sono stati in Italia. Oltre alla direzione generale della RAI è stato direttore risorse umane dell'ENI, presidente di Ipse 2000, responsabile della direzione corporate identity della Unicredit, direttore personale organizzazione dell'ENEL, attualmente è direttore generale dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Hai scritto per Luigi questo manuale in cui non metti punto interrogativo, quindi è tassativo. Per te comandare è meglio di fottere? Beh, insomma, comandare per me è fottere. Molto spesso, non sempre per la verità, cioè io ho cercato di fare un manuale in cui andasse dentro quello che di peggio ho visto nella mia lunga carriera professionale, 40 anni in azienda, cercando di mettere in guardia le persone dicendo che alla fine poi quando hai fatto tutto quello magari sei arrivato in alto ma ti sei fregato la vita. Quindi comandare può essere anche un fottere la propria stessa vita. Esiste una possibilità di scelta e di discrimine quando uno entra in questo giro vorticoso, esaltante, l'adrenalina va a mille. Abbiamo citato il romanzo di Massimo Lolli, questo giovane formatore di personale che fa il salto della sua vita. Immaginiamo un'operazione che uno si rende conto può cambiare la propria vita. Ecco, ma va fatto mai, va messo mai sul piatto anche il fatto che forse ci si sta fottendo la vita? O non bisogna pensarci? Di solito la gente non ci pensa, nel senso che è talmente presa dal vincolo della carriera obbligata, nel senso che o vai avanti progressivamente oppure nel momento in cui ti fermi vieni superato e quindi in qualche modo vedi che gli altri fregano i posti che teoricamente aspettavano te, oppure quindi, ti immergi in questo tipo di magma che ti trascina e quando sei arrivato alla fine... Cioè, il tempo passa e non ti accorgi neanche di averlo passato in un certo modo. Alla fine però sei fottuto. Guarda, a me mi è capitato di dover licenziare 10.000 persone, non 25. E quindi so che cosa vuol dire licenziare migliaia di persone e arrivare alla fine l'azienda non si salva ugualmente, perché quando tu licenzi tante persone in realtà tu non sono le persone, perché non c'è più business, non c'è più mercato per quell'azienda e alla fine te ne vai tu, come è successo a me in Olivetti. Infatti la sfida di Marco Pressi, per tenerci legati alla metafora, forse spiega anche bene il concetto, non era poi così folle dal punto di vista del tuo manuale, cioè delle regole dette. Lui fece bene a accettare. Lui voleva far carriera, quindi aveva un'ipotesi di carriera davanti e certamente quel passaggio era un passaggio cruciale per ottenere un posto di rilievo e un'autorevolezza che poi gli dava in qualche modo la possibilità di aspirare ad un altro posto ancora. E quindi da questo punto di vista lui... Però d'altra parte sai, bene o non bene, cioè quando sei in azienda e sposi la filosofia dell'azienda, non ti chiedi se è bene o male, ti chiedi se come dire, è tuo dovere o non è tuo dovere, che detta così sa molto di... Come dire, di alternativa etica di tipo non so, un codice da samurai sembra quasi esatto, da samurai o di quelli che come dire, ti ricordi le SS che dicevano ma io eseguivo degli ordini in fondo, quindi non è la mia responsabilità, c'era qualcun altro Beh, una piacevole deresponsabilizzazione che ti dà l'azienda, quando ti dà dei target che tu sai che spietatamente li portare avanti, ti dice lo fai per il bene dell'azienda, un po' come salvare la patria. Sì, perché no, l'elemento che l'azienda in qualche modo sottolinea è questi tagli, quindi questi sacrifici in realtà salvano altre posizioni, quindi noi salviamo dei posti di lavoro eliminandone alcuni, quindi salviamo la maggior parte delle persone sacrificandone alcune. È una triste eugenetica aziendale in cui alla fine tu salvi il core business dell'azienda tagliando alcuni rami secchi. Va detto che molto spesso non serve a nulla, perché quando tu arrivi a concepire che l'azienda fa il suo business semplicemente tagliando persone, vuol dire che quell'azienda ha già imboccato una strada di declino quasi inevitabile. Comunque diamo qualche regola certa, visto che ho promesso che saremmo stati tra missioni di servizio, trasformando appunto in canone su cui riflettere alcune parti del libro di Pierluigi Celli. Scalare la carriera richiede determinazione, una buona prestanza di carattere e l'attitudine a utilizzare tutte le occasioni per affermare se stessi, la propria visione del mondo, il proprio dominio strumentale delle regole, la propria distanza dagli altri. Nel salire verticalmente non sono previsti alleati, non si può piacere a tutti, neppure a voi riuscirà l'impresa di fare carriera senza scontentare qualcuno. Dunque... Rassegnatevi. Vi farete certamente dei nemici e sarete portati a soffrire per questo. Ognuno di noi vorrebbe essere sempre accettato come la persona più piacevole del mondo. Non è così. Ecco, Pierluigi Celli, quello che ci si pone subito come problema di convivenza con se stessi, con il mondo che si è sempre frequentato, quando si ottiene il primo incarico importante dal punto di vista appunto della dirigenza, della gestione di altre persone, che improvvisamente quelli che erano amici non vanno più considerati come tali. Ecco, questa è la prima operazione di ascesi, di catarsi che deve fare un buon dirigente? Ma non so se la deve fare un buon dirigente. Normalmente la fa chi... avendo preso una posizione di potere, usa poi il potere in termini non funzionari dell'azienda quanto piuttosto funzionari alla sua carriera futura. E in questo senso guardarsi da quelli che stanno attorno è una regola fondamentale, nel senso che quelli che stanno attorno possono in qualche modo essere degli inciampi per la tua carriera, possono essere quelli che insidiano i tuoi percorsi successivi e soprattutto diventano non affidabili nella misura in cui non te li sei allevati te, quindi non li hai scelti e non li hai messo il tuo imprimato sostanzialmente. Senti, ecco, poi di solito i capi si circondano di persone che sono molto fedeli e anche molto poco alternativi sostanzialmente. Un capo mediocre è sempre circondato da gente più mediocre di lui di solito. È molto difficile tenersi vicino persone competitive che ti siano veramente utili, ma che in realtà sai che crescendo passeranno sul tuo cadavere. Ma insomma, in genere sono i veri leader quelli che hanno il coraggio e anche la forza di circondarsi di persone intelligenti che possono anche mettere in discussione, perché un vero leader in realtà ha una autorevolezza che non gli deriva dall'autorità del posto che occupa, o gli deriva solo parzialmente da quell'autorità. L'autorevolezza deriva dal fatto che ha un carisma tale, una capacità di visione, una capacità di motivazione, la capacità di fare scuola soprattutto, il che implica degli allievi. E quando tu sai che facendo scuola hai degli allievi, sai anche che gli allievi prima o poi insedieranno la posizione del maestro. Quindi l'ansia di immortalità che oggi è tanto presente nella politica, o l'illusione di immortalità, non può essere ricalcata in un modello aziendale? Ma se, no, in un modello aziendale molto spesso diventa una fotocopia sbiadita oppure semplicemente la caricatura. L'ansia di immortalità è legata al fatto soprattutto che nessuno sa più cosa fare dopo. Talmente ti sei fregato il resto della vita che se tu esci da quel contesto di lavoro in cui hai passato, hai concentrato tutte le tue forze, difficilmente sai cosa fare fuori da quel contesto. Ecco, noi morti di fame invece diciamo sempre, ah che bello, pensa, quei soldi che hanno messo da parte, la liquidazione, possono vivere felicemente questi ultimi 30 anni di vita, 40 anni di vita, però non è così per un top manager. Ma non credo che poi la felicità hanno i soldi servono. Però quando ti sei abituato a comandare, quindi ad avere potere, il potere ti dà un'euforia che i soldi non ti danno, perché i soldi poi li spendi individualmente, il potere invece ha una visibilità sociale molto rilevante ed ha soprattutto la capacità di condizionare gli altri. Quindi sono sempre endorfine, neurotrasmettitori, adrenalina che ti circolano, quindi ti danno piacere, quindi comandare, come dici te, è proprio come fottere praticamente. Certo. Non vince mai il più corretto. Che lo vogliate o no, fatti fuori i vostri concorrenti una prima volta, non potrete che continuare a comportarvi in modo tale da eliminarli ogni volta che li incontrerete. Per quanto possa apparire paradossale, nulla vi aiuterà di più di un buon nemico. Coltivarselo, il nemico, è un'arte che evita di dare le cose per scontate, di accontentarsi di quello che si è raggiunto e soprattutto di trovarselo di fronte all'improvviso, con caratteristiche che non avevate previsto e in contesti che sfuggono al vostro controllo. Invece, nel programmare la propria carriera, sempre più gente preferisce uscire dalle dinamiche competitive e scegliere percorsi alternativi. La raccomandazione farà i più deboli e i meno dotati. La scorciatoia, attraverso la consulenza di livello, per i più avvertiti, con retroterra da fighetti con famiglia di supporto. Un gran brutto colpo per l'impresa che verrà, senza anticorpi e l'esperienza muscolare di un confronto anche cruento, crescerà una generazione manageriale di eunuchi, incapaci di riprodurre alcunché. È troppo chiedere di ridarci il nemico. Pierluigi Celli, quando hai scritto queste memorabili righe sul bisogno di avere un nemico, che è un bisogno reale e concreto, avevi già previsto che saremmo passati per un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui i nemici li abbiamo dappertutto, perché esiste ormai un tale livello ristretto di risorse e di posti liberi per cui ognuno diventa nemico? Dunque, guarda, io questo libro l'ho scritto un anno fa, quando ancora non c'era all'orizzonte nulla di quello che sarebbe poi successo in maniera così drammatica. Però riflettendo molto su quello che avevo visto, sentito e anche alle volte praticato, perché non c'è dubbio che alcune delle cose, anch'io di quelle cose dovrei pentirmi, mi era abbastanza chiaro che un mondo fatto in un certo modo, così talmente egoista e avido, non poteva durare a lungo. E quindi l'ho scritto con un atto liberatorio, l'ho scritto con molta rapidità, devo dire. L'ho scritto in 10 giorni senza neanche correggere una parola. Si vede che l'avevi vista queste cose. E adesso, allora, visto che siamo in conclusione, prima di dare la linea alla borsa, tanto per rimanere in tema, come ci si deve comportare? Qual è il senso che bisogna dare a questa norma? Dio dacci nemici. Oggi che nemici ci sono, come vanno trattati questi nemici? Vanno trattati bene. Vanno trattati bene perché il nemico quantomeno ti consente di confrontarti. Al nemico non puoi sfuggire. E quindi tanto male usarlo. Cioè, sul buon uso del nemico potrebbe essere un buon titolo oggi. Sul buon uso dei nemici, nel senso che i nemici vanno usati proprio perché ti mettono a confronto con te stesso e ti dicono esattamente quello che sei e quello che dovresti fare o quello che non dovresti fare. Però vale la regola che non si fanno prigionieri in questo caso? Ma io non sono mai per questa regola, perché è ben vero che se non fai prigionieri molto spesso quelli che hai salvato sono quelli che ti colpiranno. È successo anche a me. Però alla lunga io credo che sia molto più conveniente trovare degli alleati. 800240024, abbiamo sentito Pierluigi Celli, un manager di spessore, ha avuto posti di grandissimo rilievo in grandi aziende italiane, ha scritto però in pochissimi giorni un manuale, Comandare meglio di Fotter, che è il manuale dello politicamente scorretto per aspiranti carrieristi di successo. Non ho ben capito se con amarezza, con rimpianto o con un senso di consapevolezza che in fondo comandare significhi anche fottere se stessi, o perlomeno il comandare è un'arte meravigliosa, sublime, di grande soddisfazione, è l'esercizio massimo a compiere un essere umano, perché procura anche una grande soddisfazione fisica, però con l'angoscia e con il senso di apprensione per quando terminerà questo esercizio del comandare. E come l'uomo di comando termina la possibilità di esercitare quel comando, per lui scompare il mondo, anche se poi ha accumulato fortune notevoli, anche se ha beni da consumare per vivere una vita agiata e felice, non gliene importa nulla, perché gli manca la chiave essenziale della sua felicità, che è appunto il comando. 800240024, qual è il vostro rapporto con il comandare e quanto il comandare è legato al fottere se stessi o fottere piacevolmente qualcuno del nostro prossimo? Complimenti per il nuovo incarico. Ah, e ti pareva che non lo sapevi di già? Come vanno le vendite? Non si vende un cazzo. 25 persone da segare nelle funzioni centrali, entro l'anno. Complimenti. Grazie. Solo un dilettante come te poteva accettare un target simile. 25 persone da segare in colloquio individuale in 3 mesi. Io che sono il numero uno, 2 anni fa ne avevo 15 in 10 mesi. Se ce la fai ti fanno santo. Quanto ti hanno offerto? Direttore del personale. Ci ho preso, vero? Motivazioni, altro che denaro. La verità, caro mio, è che se voi vendeste di più non ci sarebbe nessuno da segare. Presi, ci sono sempre quintalette di impiegati da mandare al macero. Tu che sei il numero uno, come si sega la gente? Gli italiani sono i migliori killer del mondo. Io rido quando sento gli americani. We fire 1,000 people, we fire in 1 week. Ma che vadano a cagare. Là chiami uno, gli dai 2 settimane di stipendio e lo mandi fuori dalle balle. Qua chiami uno, gli dici vattene e quello ti ride in faccia. Anche un pirla è capace di segare la gente in America. L'arte del segare in questo momento è esercizio più consueto in chi deve avere responsabilità di comando, e forse per questo Pierluigi Celli dice che comandare è senza dubbio fottere. Chi comanda deve fottere. In un momento come questo, chi ha le responsabilità di un'azienda, soprattutto le responsabilità di gestione delle risorse umane, sa che deve fottere, e se vuole continuare a comandare lui deve fottere. Daniele, buongiorno. Sì. Pronto? Eccomi, Daniele. No, sono Michele. Ah, Michele, avevano scritto Daniele, chiedo scusa. È lei che dice che l'azienda per fare mercato non può essere buonista, deve assolutamente fare suo questo principio che comandare significa fottere. Gianluca, ti do da tu perché sono un facebookiano. Sì, ma puoi darmi del tu comunque. Ecco, ascolta, io ho 59 anni, no? E la mia bella esperienza me la sono fatta anche al comando. Allora, e comando significa in questo sistema, in questo modo, in questi mercati, significa cattiveria. Allora, se tu sei cattivo, comandi. Non c'è alternativa, però, penso. C'è l'alternativa. È che l'alternativa è difficile, è complicata. Allora, io ho sempre legato il comando alla saggezza. Allora, se la saggezza prevale nel comando, allora tu non solo quando avrai smesso di comandare sarai sereno, perché la saggezza ti porta a capire che un giorno che questo finisce e ti ritrovi lì come un pippa. Tu richiedi un esercizio di tipo zen a un manager che tutti i giorni deve guardarsi prima le parti basse posteriori dai suoi colleghi e guardare avanti con il macete dove farsi strada nella giungla. Scusami Gianluca, è qui la rivoluzione, perché se stiamo in questo sistema tra 50 cattivi ne rimane uno, gli altri saranno 49 cattivi incazzati. Questa è la società, se questo è il modulo. Ti ripeto, è come aprire un recinto perché... di cani rabbiosi in mezzo alla folla. Esatto, Barbici, hai creato 49 insoddisfatti e io direi che chi comanda ha questa condizione, diciamo, di anche umanitaria fra virgolette, perché l'azienda non si gestisce con umanità, a volte devi usare anche il bastone, però voglio dire, se siamo presi da comandanti incazzati, cattivi, non è che si può andare molto lontani, perché c'è poco spazio anche alla diplomazia. Scusami se mi sono dilungato. No, è quanto mai giusto e interessante, ma andando avanti nel filo rosso del nostro racconto, in cui alterniamo l'esperienza degli ascoltatori, volevo solo dormirle addosso quando Marco Pressi, normale, semplice formatore, quindi senza nessuna responsabilità di comando, anzi una delle figure in fondo di cuscinetto in un'azienda, quelli che servono a tenere buone le persone o servono a fare dei programmi di formazione che fanno parte poi delle negoziazioni che si fanno con i sindacati, per dire insomma si fa qualcosa per i dipendenti, entra anche lui nel circolo dei gladiatori, di quelli che devono far schizzare sangue altrui per farsi strada, per sopravvivere. Si confronta con il suo collega più smaliziato su quali siano le tecniche di uccisione veloce del personale che lui deve eliminare. Ci sono due fasi, preparazione e colloqui. La prima fase, devi andare dal capo del condannato. Solo il capo del condannato ti dice se è ricco di famiglia, se è nella merda e ha bisogno di soldi, se è uno che si caga sotto oppure se ha le palle. Solo il capo del condannato ti apre la porta della sua anima. E se apri quella porta, fai il risultato e lo incuri. La seconda è quella super psichica, i colloqui con i condannati, Pressi. Prima parte gli dici con le buone che ferra di balst. Poi però lo stai ad ascoltare mentre si sfoga a raccontarti la sua vita da sfigato. Portati dei Kleenex perché qualcuno piange e in quel momento non deve lasciare la tua stanza. Lasci passare una settimana e poi gli fai la tua offerta. Ma ricorda Pressi subito al muro, perché se iniziano a pensarci poi ti sbanca. A quanto si chiudono? Ai vecchi non dare un cazzo, a quelli cui manca un anno o due la pensione il meno possibile, ai giovani li fai salire su un pullman e li butti giù da un burrone. La cosa divertente è che poi noi ci scherziamo, diamo valore di facezia, di lucubrazione romanzesca al romanzo di Massimo Lolli, che in realtà però tutti sappiamo che è esattamente così. Chiunque lavora in un'azienda sa che non ci sono alternative. La regola è questa, è una regola non sempre scritta, una regola molto sfumata, molto limacciosa nelle sue possibilità di applicazione, ma quando si chiamano i consulenti d'azienda per fare dei piani di efficientazione del personale, questo ti dicono. Beh, noi useremmo questi termini per parlare, non so, di derattizzazione. Ecco, se io dicessi una cosa del genere riguardo dei topi, ci sarebbero subito 100 associazioni animaliste che insorgerebbero, verrebbero cartelli qua sotto, poveri topolini e povere topoline, così maltrattati. Ma dirlo in un contesto aziendale nei confronti di esseri umani, ma non faccio il moralista, sto semplicemente portando alla superficie una mia riflessione, non dico debba essere diverso, sbagliato o voglio fare il buono, però mi sorprende molto che le attenzioni che noi abbiamo ad esempio per animali, per gattini, per cavi da laboratorio, per criceti, per pulci d'acqua, appaiono improvvisamente fuori luogo, anacronistiche e sbagliate quando si parla di esseri umani. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Mi fermo così. Ah, sta guidando lei. Sì, sistemi perché... No, non guido più. Ecco, allora, la sentiamo bene. Mi sente ora? Sì. Grazie. Allora, io sono stato fortunato perché in questo momento, tra l'altro vi ascolto sempre, ma in questo momento ho riascoltato con piacere l'amico Pierluigi Celli, che è stato il mio capo, diretto e indiretto, in una splendida avventura che si chiamava Omnitel Pronto Italia. Uh-huh. In quei tempi si trasmettevano i valori, no? Che poi sono i valori che un capo deve fare propri. E quando il mio capo... Ma certo, anche io l'ho avuto come direttore generale, ma non poteva certo chiamarci e leggerci i passi di questo libro. Tra l'altro devo comprarmelo perché sono ben felice di trovare le esperienze di un grande, come dire, gestore di personale. Voglio dire questo, quando il mio capo in Omnitel mi disse adesso tocca a te e ricordati che più su vai più sei solo, lì ti devi, come dire, immedesimare in una posizione di cercare di non fottere il prossimo, perché se più vai su e più sei solo vuol dire che te la sei voluta. Però se costruisci intorno a te un clima di consapevolezza, anche nei momenti più bui, e quella consapevolezza la tiri fuori per mandare via le persone che devi mandare via, mi spiego? Un'azienda ogni volta che ti fa fare un passo in alto ti dice sempre renditi conto che sei tu che lo vuoi e ne accetti anche le conseguenze, ti mette in mano una pistola e dice ma sei tu che l'hai voluta. Esatto, è anche vero che Celli in un momento che mi vedeva, come dire, a mia volta costretto ad abbandonare un'azienda, mi disse se io ti porto con me in questo momento ti porto in un posto dove non ti voglio portare. Lui stava uscendo da Ipse e con lui stava mandando a casa migliaia di persone. Mi aiutò e mi disse guarda, è meglio che tu non venga con me. Non so se mi spiego. Beh, quindi ha avuto ragione, ha salvaguardato se stesso e probabilmente anche lei, quindi ha ottenuto i due piccioni con una fava, probabilmente, se è quello che voleva dirmi. Mi fanno notare Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti che anche oggi è una di quelle puntate che uno chiamano donne, e ho proposto la prossima settimana di rovesciare i termini di questa domanda, e forse le signore saranno più interessate, ma è giusto che le donne siano più interessate in questo binomio apparentemente indissolubile fra potere, fra comando, fra vessazione e piacevolezza delle carni, perché il fottere non è inteso soltanto nel senso di fregare, di turlupinare, di mettere in condizioni di minoranza e inferiorità una persona, ma fottere in tutto il nostro paese, dalle Alpi alle piramidi, ha anche il senso di rapporto amoroso, quindi ha varie possibilità di lettura questo assioma. Comandare meglio di fottere significa che chi comanda non ha tempo per farlo, ha più adrenalina, più soddisfazione fisica nel farlo, e anche la speranza sommessa, molti fanno i furbetti, mi stanno scrivendo su Facebook, Nicoletti lascia te il comandare, mi piglio l'altra cosa, e si danno di conto di dire coglione, tu pensa a comandare che al resto ci penso io. Ma cari miei, le due operazioni sono molto legate tra di loro, molto difficile la seconda se non ha minima consapevolezza del primo, e poi comandare in senso lato, comandare non significa semplicemente essere un top manager, significa anche avere la possibilità sottile di esercitare il proprio dominio sugli altri, perlomeno di vendere fumo, perlomeno sembrare uomo di potere quando non lo si è. È una performance eccellente, complimenti. Con novembre hai raggiunto quota 20, ti mancano solo 5 persone, il piano è fatto. Ho raschiato tutto il barile. Sono certo che ce la farai, non puoi fermarti adesso. L'unico problema che vedo è il clima aziendale. Jean-Claude, io giro tutto il giorno con un macete tra gli uffici. Che tipo di reazione ti aspetteresti dalle persone? E poi circola la voce che 2 anni fa venivano concesse buone uscite molto più alte. Io 2 anni fa ero a Istanbul. Non so nulla. Va bene, il più è fatto. Rinunciamo a questi 5, fermiamoci qui. Adesso comincio a capire come siete fatti voi italiani. Voi non siete fatti per le sfide, la lotta e il rischio. Voi non siete fatti per la competizione. Voi non volete sconfiggere l'avversario. Ma mettevi d'accordo. Il target è 25. Au revoir. Questa era la terrificante cinese capa della multinazionale in cui lavorava Marco Pressi, donna bellissima per dimostrare che in fondo esiste una partecipazione femminile a questo senso di comando, che rappresentava simbolicamente l'Oriente, la Cina, l'aggressione al nostro mercato, la fine delle nostre sicurezze. Dice, voi italiani non siete fatti per la competizione, per voi la sfida non ha senso, lei sanguinaria voleva che lui segasse tutti i 25, lo ha provato a fermarsi a 20, ma in realtà, come giustamente aveva detto Celli come titolo al suo libro Comandare e fottere, Marco Pressi, quando riuscirà a segare 24 persone, il 25esimo segato sarà lui stesso, perché il meccanismo implacabile, dopo avergli fatto tagliare tutte le teste, taglierà la sua testa. Vittorio, buongiorno. Sì, buongiorno. Solo 2 osservazioni. Secondo me non si pone il problema se è meglio l'una o l'altra cosa, perché tanto chi comanda fotte. Prima considerazione. Seconda considerazione, ha ragione Celli, quando perdi il comando, anche se hai soldi, diventa sempre più difficile fottere. Se mi consente un'altra considerazione che però riguarda l'argomento della settimana scorsa. Qual era? Che non ricordo. Quello del potere, quello delle donne. Ah sì, beh, sono legati gli argomenti, certo, ecco. Sì. Quanto il potere d'acquisto rappresenti fascino? Ecco, la mia considerazione a proposito, mi ero messo in coda per chiamare ma non mi hanno chiamato, è questa. Guardi che le donne che dicono che è meglio essere belle dentro che fuori, sono tutte quelle brutte. Sì, o se no sono le belle che vogliono sembrare magnanime nei confronti delle loro consorelle più svantaggiate. Sì, anche se oggi, guardi, ma glielo dico con una grande serenità data dai miei capelli bianchi, così sì. Metto tranquilli tutti. Essere belle, essere brutte conta fino a un certo punto. Oggi la bellezza è una condizione conquistabile attraverso alcuni status, alcuni interventi drastici sulla propria persona. Oggi è difficile capire chi sia veramente bella, chi sia veramente brutta. Io ho davanti un elenco di donne che per stereotipo sono le belle delle belle. Ve le dico tutte, se volete. Valeria Marini, Monica Bellucci, beh tanto forse Monica Bellucci un po', ma non so, una serie di donne che vedo celebrate come bellissime, in cui non trovo poi questi segni così fascinatori di un modello di bellezza. Ma sono stabilite che esse siano belle, quindi negli ambienti minimi che noi circondiamo c'è sempre la bella per statuto, per acclamazione, per approvazione. Quindi il concetto di bello e brutto è fluttuante e è molto legato anche in campo femminile, secondo me, al concetto di potere o di capacità di avere un buon rapporto col potere. È d'accordo, Vittorio? No, non sono d'accordo. Va bene, per piacere. Se una è alta 1,20 non può, e dice io sono bella dentro, guardi. Sì, non, diciamo, potrei darle mille occasioni di fascino date anche da noti proverbi che giacciono nella saggezza popolare, ma mi guarderò bene dal pronunciare in questa sede, che danno fascino comunque nascosto anche alla donna bassa. Ettore, buongiorno. Sì, ciao. Volevo dirti che mi trovo pienamente, purtroppo, d'accordo con un po' tutta la storia del film, no? Volevo solo dormirla addosso. Purtroppo le aziende sono fatte di numeri. Purtroppo è la regola, esistono per quello, se no non sarebbero aziende. Inutile. Ecco, cioè l'azienda buona, anche l'azienda in cui lavorava Pressi aveva uno slogan people first, cioè gli uomini tutto manco per niente, figuriamoci, l'ultima delle loro preoccupazioni era il benessere delle persone. Forse il problema è che bisognerebbe stare un po' più attenti nelle assunzioni, cioè nel momento in cui assumi delle persone che già sai che poi in un futuro possono darti dei problemi o comunque non possono renderti quanto vuoi, poi ogni azienda decide quanto deve rendere. Beh, oggi non assume più nessuno, quindi il problema è tagliato alla base. Alla base sì. E mi sono trovato nei panni un po' di Pressi e ti dico è davvero brutto. Sebbene tu cosa poi... hai fatto? Hai fatto il capo del personale? Sì, per alcune agenzie immobiliari, quindi un po' il settore in crisi. E quindi dobbiamo dare atto che a volte non servono più tutte quelle persone che tu negli anni precedenti hai pensato ti servissero. Oddio, non vorrei darti un dolore, ma ne sarei quasi contento che non girano più quei signori con le scarpe gialle, i pantaloni stretti, i vesponi che ti vengono a chiedere e bussare alla porta di casa e dirti se la casa tua è in vendita. Mi piace che esista un libero mercato, che se mi piace una casa vado a parlare col padrone di casa senza intermediari. Quello sì, difatti è da vedere un po' l'agenzia immobiliare come servizio esterno rispetto alla semplice compravendita di mobili. Io dico sempre, se dovessi guadagnare dei soldi perché apro una porta e faccio vedere una casa, sto praticamente chiedendo un'estorsione quasi. No vabbè, però è successo questo, quindi è andata bene. Ma torniamo al punto, se no apriamo un altro argomento. Sì, sì. Tu dicevi che la fase cruciale in cui... il vero secondo segno del comando è il momento in cui tu acquisisci forze nuove alla tua azienda. Perfetto, sì. Va bene, è molto chiaro. Leo, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao. Finalmente un manager, vero? No, sì, nel mio piccolo sì, nel senso che lavoro per un'azienda, però lavoro in un settore molto particolare che è la ricerca e sviluppo, quindi volevo solo dire due o tre cose, un po' confuse, però cerco di farmi capire. Allora, la prima, secondo me bisognerà un attimino fare il punto sul... che cos'è autorità e che cos'è autorevolezza, primo. Due, perché uno può avere l'autorità, però poi appena gira le spalle non ha assolutamente gente che lavora. Due, quindi bisogna farsi accettare e parlare con la gente. Due, il lavoro è cambiato, si lavora a distanza. Se non hai autorevolezza, la gente non lavora per te. Sì, il carisma è dato più dalla presenza, ecco. Sì, tre. Il modello che, di cui si sta parlando, di cui ha parlato Celli, giusto? Sì. Il nome, è un modello da capo ufficio. Cioè, beh, lui è stato direttore generale di varie aziende. Sì, no, no, ma assolutamente. Esistono tantissime di queste realtà in Italia. Nel senso che tu lavori in una struttura chiusa, dove è come un piccolo paese, no? Dove tu poi sono dai pettegolezzi fino alla bella. Sì, in effetti è vero, le grandi aziende in Italia hanno questo senso strapaesano di essere delle isole felici chiuse verso l'esterno. Chi vive in azienda non ha percezione del mondo che sta fuori finché non esce da quell'azienda. Esattamente, dove d'altra parte esiste ancora il mito del capo ufficio, no? Dove quello che lui dice o che umore ha, ma non è più così. Cioè, allora io dico, se vogliamo fare un passo avanti dobbiamo, uno, parlare con la gente che lavora con te, due, sentire anche ogni tanto i problemi personali che hanno, perché anche quello è giusto ascoltare, e tre, voglio dire, io sono un buonista, no, da questo punto di vista, però attenzione, che tutta questa gente che ha lavorato così, che poi, mi perdoni Celli, si salva la coscienza scrivendo un libro o pentendosi, che è anche questo uno sport nazionale, no? Uno si pente e vabbè, è tutto. Io penso che però alla fine, guardi, quello che conta è i risultati concreti nei quali si è lasciata l'azienda da cui ci se n'è andati, è questo che ci giudica verso il mondo. Come l'abbiamo fatto poi alla fine fa parte delle prassi e delle tecniche. Solo una battuta alla fine, Rosanna, 60 anni, lei dice è meglio fottere i comandari, riesce a sintetizzarlo in 30 secondi questo suo massima filosofica? Difatti io sono, ecco, sono arrivata all'ultimo, mi spiace per questo perché io la sento spesso, e avendo diciamo origini siciliane, questa parola era molto spesso detta in così, era di consuetudine dire questa parola, meglio fottere che comandare. E lei è d'accordo? Ritengo che non sia meglio, ma comunque comandare, avere un ruolo nella vita è una cosa bellissima, importantissima. Vediamo le persone come la Rita Levi Montalcini. Sì, ho capito, ma invece l'altra parola? La Montessori. Sì. Ma queste comandavano, probabilmente l'altra cosa la facevano in maniera molto limitata, se no non avrebbero raggiunto i limiti che hanno raggiunto, i livelli che hanno raggiunto, ma non mi vuol dire esattamente la sua massima di vita. Pensavo condensabile soltanto in una battuta, ma giustamente la signora è strategica e tiene da parte ciò che più di segreto ha della sua vita. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera. Alle 22:00.